io lo stesso, quando a volte salto uno dei due pasti, solitamente entrando, magari mi mangio frutta, capito? Mi mangio una mela, magari mi mangio una mela con un arancio, e quello mi fa stare tranquillo e poi arrivo alla cena. Ovviamente poi a cena mi contengo, non è che mangio più di tanto, capito? Niente, io adesso faccio un attimo di bianco, 5 minuti, perché parlando di cena e di cose da mangiare devo avviare un po' la roba per stanotte, 5 minuti e poi rientro, tanto vi ascolto comunque. Ma Carlo, vabbè, a concorrerlo. E io ho messo i fagioli a bagno nell'acqua e domani ho voglia di mettere i fagioli, mi hanno regalato fagioli di campagna, l'ho tutti sgranati e li ho messi a bagno. Adesso domani, solo che poi quando lo faccio me ne avanza sempre, mi tocca poi alla fine buttarcelo, perché ho messo sempre di minestra ai fagioli 50 anni. La minestra ai fagioli è spettacolare e quella che avanza all'indomani è ancora più buona, perché la scaldi appena, ma si è un po' raddensata e ha preso sapore della fine del mondo, un filo di olio crudo e un po' di peperoncino ed è spettacolare. Ma io me la mangio anche fredda, mi piace di più fredda che calda, mi piace più fredda. A me mi piace più la sera, quando avanza la sera me la mangio senza scaldare, mi piace più fredda, ha proprio il sapore buono. E le cose avanzate, a mio parere, prendono più sapore, riposate e sono sempre più buone. Anche i peperoni sono così, quando faccio la peperonata sono più buoni freddi che caldi. Vabbè. Comunque verdure e frutta non dovrebbero far, cioè se non è che ne mangi di frutta tantissima, perché contiene zuccheri anche la frutta. Qualche mandarancio lo mangio io la sera quando arrivo a quest'ora da lavoro, che ci vuoi, perché è fresco, è liquido, è dolce, e mi dà un po' di soddisfazione, ma altrimenti frutta non ne mangio tanta, la verità. No, io sono patito di arancia, io mangio molto arancia, ne mangio due a pasto. E a volte la sera prima di andare a letto altri due me le mangio, mi piacciono molto, non posso farne a meno, c'è gente che ci fa la spremuta, io la spremuta non ne faccio, ma le mangio così. A me invece proprio la spremuta mi fa un po' di acidità. No, a me niente, no, la verità, io posso mangiare anche i peperoni di notte, mi non sai quando l'acidità, quando dopo che ho passato per la febbre e con l'influenza mi ha preso apparato gastrointestinale, mi veniva nausea, bruciore allo stomaco che non avevo mai sofferto, io addirittura mangio i peperoni di notte, non mi fanno nulla. E vabbè, quello è il virus di questa influenza che c'è in giro, che sta facendo così, quello è in giro, c'è mezza scassa di accusi. E solo quello, ma questo bruciore che non dormivo la notte, mi salivano gli acidi, proprio come toccato, mi stava avendo il reflusso gastroesofageo, detto, strano, ho preso il Malox, perché ce l'ho sempre a portata di mano, quelle pastiglie che si succhiano, ho preso il Malox e due o tre giorni mi è passato, non ho più avuto nulla. Però manco voglia di mangiare che veniva, avevi la nausea. Eh beh sì, con questa influenza da febbrone alto, problemi all'intestino, è gana di mangiare. Io ce l'ho, c'è un farmaco che fa dimagrire senza fare dieta, però costa 380 euro la pena, che ti fa 4 punture, infatti si fa una alla settimana. Quello lì, oltre che far bene per il diabete, ti fa regolarizzare la glicemia, fa anche dimagrire. Infatti il dottore mi ha detto, no, se le venda, perché molta gente le prende per sé e poi se le vendono, perché costano un sacco di soldi. Adesso 380 euro. E all'ASL sono riusciti a dargliela per 85 euro, però i farmaci le vendono così. Dipende dalla marca e dal dosaggio, già le conosco. Il dosaggio è per quattro volte, ti dura un mese, una volta alla settimana devi fare. sì, però ci sono vari dosaggi, perché si prende a scalare, si inizia con 0,25 il primo mese, poi 0,50, poi 1, perché iniziare, parlo di milligrammi, no? Perché iniziare direttamente col dosaggio altro è una botta pesante per il fisico. Allora si parte da presto e da poco, e si sale sino a 1,7 e anche a 2,4, però sono dosaggi molto pesanti quelli, e costano, sì, quello da 1,7 costa 2,90, ma c'è una farmacia a Sassari che applica il 15% di sconto, già la conosco. Come si chiamano quelle di città? La marca è Wegovy, con la W E G O V Y, Wegovy. No, no, la mia io penso la marca, però io lo prendo perché sono diabetico per la glicemia. Io ti dico una cosa, la glicemia che avevo 200 eccetera, mi è scesa a 120, 110, a volte 98, capito? Ma l'ha regolarizzata, e io sto facendo quella da 5, ho cominciato con tutto quella da 2,5 e poi ho fatto quella da 50. Io ho la figlia che mi sta chiamando mia mamma dall'appartamento di fianco. Scappa, scappa, devi chiudere. Avanti, chi c'è sul 10? Allora, attenzione 10. Aspetta un attimino, sto arrivando. Ehi, acca, non fare tranquillo, dai. Via. Vabbè. E comunque, è così. E quella, la molta gente la usa per dimagrire, ma solitamente si dà la gente diabetica per regolarizzare la vicina. Me, stavo leggendo adesso incursione invernale nel weekend, quindi aria artica e dovrebbe fare freddo sino al 20, capito? Sino al 19-20. Poi c'è scritto anticiclone subtropicale dall'Africa, capito? E quindi per fine febbraio dicono che farà una primavera anticipata. Ah, ecco. Oh, via. Ma lo sai che a proposito di primavera, il mio uccello, quello che c'è da solo, ha fatto l'uovo dentro la vaschetta del mangime. Addirittura. E si è anche spaccato, era pieno l'uovo, io non capisco, non c'è il maschio, e l'ha fatto lo stesso. Strano, no? Allora ho fatto una cosa, ho tolto dalla gabbia l'altra femmina che si mangiava le uova, e ho messo quella, ma l'ho riservato, capo. Il maschio la stava attaccando, l'ho dovuto togliere subito. Taffarrani, capito? Perché stava toccando l'uovo magari. No, perché praticamente gli ho messo un'altra femmina al maschio, capito? Gli ho messo un'altra femmina e non l'ha voluta, perché poi ho letto che sono praticamente hanno solo una femmina, ogni coppia rimane così, non cambiano femmine né niente, capito? Non gli mettono le corna. Hai visto, fedeli sono questi pappagallini. Già sono curiosi, va. Esatto, va bene. E quindi ti fanno pure le uova. Anche gli altri me le facevano, ha stato 25 giorni con vanno e non si sono schiuse. Non capisco. Eppure li ho visti io che si stavano accoppiando, quindi li ha gallate anche. Sì, ho capito. Io lo stesso, mi stavo preparando qualcosa da mangiare per stanotte, così mi faccio la cena. Mi ho lavato un po' di insalata, così un po' adesso sgocciola, capito? Un po' di olio d'oliva, poi ci metto sopra e così faccio velocemente. Oggi un'amica mia mi voleva regalare un'altra che le aveva regalato a lei, ma lei dice che gli fa senso, è da spiumare, no, ho detto qua, non ne voglio. Ma era bella, me l'ha fatta vedere, bei colori. Ma era viva o morta? No, morta, un cacciatore, un amico suo l'ha portata, capito? Io non la so nemmeno cucinare, so che si fa con l'arancio, però non l'ho mai fatto. cavolo, è buona l'anatra, me l'anatra la fai anche arrosto, capito? Fai un, prendi un arancio, lo fai a fette sottili, metti tutto nella pancia, capito? Non è, ci metti un po' di patate, capito? Il gioco è fatto. E a me, io gli ho detto di no, me l'ha detto, ma se no ce l'ha avuto, perché dice io non ho avuto cosa di lì che non la volevo, me l'ha regalata, dice fresca fresca, me l'ha regalata l'altro giorno, l'ho messa in freezer per non guastarsi, però è fresca. È da sfiumare, adesso con il casino invece della bandina, è un casino prenderti queste cose da sfiumare, vuole bollita per vedere le piume, invece l'acqua calda. Ah, va bene, tu in effetti adesso c'hai un po' di disagio con quella situazione là in cucina, e finché non metterai a posto, dai, poi vedrai, ti verrà anche la voglia di cucinarti qualcosa di buono. Ci vogliono 500 euro per mettere a posto. Ascolta, chi te l'ha fatto il preventivo, l'idraulico che è venuto? Sì, uno degli idraulici, ne sono venuti tre, perché io non mi sono arreso, l'ho fatto fare a tre idraulici, nessuno è riuscito a farlo andare avanti. Evidentemente si è creato un tappo talmente duro, capito, che ha ostruito tutto e non ce la fa neanche la pressione, capito? E quindi lì bisogna fare, insomma, certo, o scavare dal WC dove c'è, diciamo, tutti i collegamenti, no? Tutti gli scarichi, e rifare quello lì, quindi aprire dal bagno, se c'è il doppio servizio magari si sfascia lì dentro e poi si innesta il tubo, se no, se ti devono fare tutto lo scarico nuovo completamente, sì, allora lì devi fare rompere anche il pavimento, Gianni. Devono togliere tre o quattro mattonelle e fare l'aggiunzione e basta, così va detto. Però dice c'è lavoro, capito? C'è lavoro e niente. Allora gli ho detto, per il momento non lo faccio. Adesso chiederò a qualcun altro, perché 500 euro mi sembra una cifra eccessiva. Devo mettere tre mattonelle, un po' di cemento, il collante per e le mattonelle sopra. Cosa devi fare? Un pezzo di tubo che è giusto. Esatto, se trovi chi te lo sa fare, magari con anche con 200 euro, capito, di materiale c'è poca roba, capito, non è che ci sia granché di materiale. 500 mi sembra un pochettino troppo anche a me. È troppo, lui mi ha detto, guarda, per venirti incontro qualche cosina in meno te la posso fare, ma poco in meno. Ha detto, guarda, lascia perdere. Lasciami lì, non è vostro per il momento, ne chiamo un altro adesso che faccio fare dei preventivi, vediamo se c'è qualcuno più onesto, mi dice, naturalmente deve fare un bel lavoro, deve fare una cosa la mela frutta. Esatto, esatto, no, chiedi e valuta bene, capito, già, prima di farlo, se trovi quello che ti fa il lavoro è perfetto, capito, e ti fa spendere la metà di quello che mi hai detto, va anche bene. Sì, ma io se fino a 300 li avrei date, ma 500 mi sembra eccessivo, mi sembra eccessivo. Anche a me, anche a me. Diciamo, un po' di lavoro c'è, però non è tantissimo. Adesso io non ho idea delle distanze di quello che c'è, però i tubi di scarico costano pochissimo. Un po' di cemento per riempire, poi devi aspettare che asciuga. Una volta che è asciutto, vai, metti il collante, sistemi i mattoni, metti un po' di stucco, chiudi tutto e buonanotte. Non è che c'è grandissimo lavoro da fare, capito? E quindi si tratta lì di trovare la persona che ti fa spendere il meno possibile. Infatti, vediamo. Adesso provo a chiamare mio padrino, ma lì c'è caro di fuoco, lui è. Ah, è quello di via Sproni? No, quello che c'è di fronte a Corte Santa Maria, Marras. Ah, esatto, sì, quello di via Sproni è forse idraulica Dettori, mi sa. Invece Marras è al centro là. E di fronte a Corte Santa Maria, dove c'è il fornitore di fronte. Ma già ce ne sono tanti di idraulici, capito già. Ma devi trovare quello che ti fa lavoro, capito? Facciamo agire l'acido che hai messo, di modo che magari ramonisca un po', poi vi ritorno. È tornato tre volte, poveraccio. Non posso dire nulla perché ce l'ha messa tutta, non ce l'ha fatta. Dice già, a sette l'ho messa, te lo dico all'orecchio perché non dovrei farlo, ma ho provato, ho tentato tutte, a sette sono arrivato. Se non è andata a 7 atmosfere è proprio troppo duro. Comunque adesso quella roba che hai messo si sarà, spero, dispersa un pochettino, che sia scesa piano piano, non lo so, non ho idea come fosse l'occlusione, se era totale, non scendeva niente, oppure piano piano piano magari poi scendeva, capito? No, non scende nulla. Allora, praticamente scende per un po' il rubinetto, quando lo apri scende per un bel po' e poi si blocca e poi ritorna indietro. È alla fine, capito? È alla fine proprio, perché riempie circa un metro di tubo. Sì, va bene, dai, già, speriamo bene, dai, già lo risolverai prima o poi, capito? Chiedendo a uno e all'altro, poi vedrai che già lo trovi prima o poi quello che ti fa spendere meno e poi te lo sistemi e non ci pensi più. Infatti, sì, va bene. Lo sistemeremo, se no mi dice la bacinella, la smottola al water e via. Faccio le stesse cose, solo che mettermi adesso questa rata da pelare, da fare, a munire l'acqua, tutte le piume, lascia così. L'anatra l'ha lasciata andare via, dai. Adesso mi dispiace che l'hanno ammazzata per niente, perché lei adesso ce l'ha buttata solamente perché lì torno della scusa, no, non mi piace, poi si offende. Purtroppo è così. Se no faceva festa anche il cane, mi con l'anatra. Già, se ti fidi. Sì, è un gioco. Non so cos'è, bisogna che metta in strada a spellarla. E poi me la porta a casa già spellata, perché pure in casa a togliere le piume così è troppo grande, capito? Sì. Sì, l'anatra è abbastanza grande, più o meno come un pollo, capito? In effetti se sei solo, capito? Anche se ti metti a mangiarla in due volte non credo che ce la fai. Solo che se era fresca potevi anche farne metà e l'altra la mettevi in freezer e la facevi un'altra volta. Anche quello è vero. Mangiamo un pezzo di pane, ma è così buono. Antonio, ma che ti fa ingrassare il pane? Ma lo compro lì in via Sulcis, ma che tuo pane è buono, ha detto. No, io ce l'ho lì un paio di chi. Antonio, buonissimo, è uno dei migliori che c'è a Sassari, secondo me, perché artigianale non è che rifornisce negozi né nulla, lo fanno solo, lo vendono lì e basta. No, qua ce l'hai il negozio di via Grazzaneretta, ma di via Manzone, già alcuni negozi già ce l'hanno a Sassari, ma pochi però, poche panetterie. Prima non le facevo, adesso non lo so se ha cambiato, però è artigiano, capito, non è di quelli tipo Cesarace, tipo quelli lì, lo fanno, il pane lo fanno artigiani, è artigianale come pane, c'è un sapore così buono. Anche la sera è buono. E anche l'indomani, uguale il freezer, uguale il freezer è buono. E infatti quando vai te lo danno caldo caldo un po' di volte, perché quando sto andando e prendendo. Sono andato un gittaggio, non vedo più pane, solo focaccia c'erano. Ma sono buoni, c'erano una bontà quella roba. Prima lì c'è le tentazioni, fa frittelle, fa paste, fa un po' di tutto, papassini, un po' di tutto. Il pane all'uva. Buono il pane, buono, buono, buono, buono. Forse uno dei migliori di Sassari. E ci avrà controllare la cena, va. Stai pronto. La rimane a doppio di pane, però che fa si ingressare al vivo. E che comunque c'è buono, c'è proprio il sapore buono, caldo. Non ce la fai a mangiare mezzo panino, te lo mangi tutto perché è buono. Ma qual è quello che c'è alla fine del Ponte Nuovo, la via dritta, via Sulcis, sulla destra? Sì, sì, quello lì, il fornetto si chiama. L'ho preso diverse volte, in effetti è buono lì il pane, solo che c'è sempre traffico, a volte non trovi parcheggio, capito? Prima d'estate trovo più parcheggio sì, fanno tante cose, oltre il pane fanno anche qualche dolce ogni tanto. E io quasi non parcheggiare, come andare verso giù, girare verso giù, parcheggiare la macchina e andarci a piedi, vedo di qua. Oppure la vedi su marciapiede, devi lasciare però qualcuno, perché arrivano subito i vigili e mettono multa a tutto andare. Esatto, esatto, magari tu entri dentro a dire tanto ci piego un attimo, trovi una o due persone, quando esci ci sono passati i vigili, ti hanno imposto una multa, capito? E non va bene. Sì, se per prendere il pane si prende anche la multa, lì costa anche un po' di più il pane, però le pane piace dire costa di più. D'estate invece è più facile, capito? Soprattutto la mattina lo trovavo lì un parcheggio sul marciapiede, capito? Un attimino mi fermavo, invece se vai alle ore intorno all'una, mezzogiorno e mezzo, lì c'è sempre tanta gente che entra e non trovi mai niente. A te, vedo la Sicilia a Portorella, ma è andato ci sei dietro la chiesa. Dove già? Con la pasticceria che c'è dentro la chiesa del cuore immacolato, proprio nella schiava. No, non ci sono mai andato. Stamattina ero nella zona, sono andato in via Grazia Deledda, in un negozio lì, c'è una sartoria, capito? Praticamente ho portato la tenda, mi ho preso una tenda nuova per il soggiorno, perché quella che avevo era troppo trasparente. Siccome ho palazzi di fronte, sembra che quando tu accendi la luce ti vedano dentro, e ho provato ad uscire fuori, in effetti si vede tutto. Allora ne ho trovato una più o meno sempre tipo quella che avevo, però è di quelle, capito, che non sono trasparenti, capito, sono coprenti e quindi non si vede niente. Io in sala c'ho la doppia tenda, capito? C'è la tenda più la vantaggiata. Ma insomma, ci devo essere potente, no? Mi ascoltate? Ehi, Acla, vai! Ah, io sto provando un baracchino che volevo prestare. Elbex 4082 MB più 4, sta uscendo, sì? Sì, va bene. Buona la radio, va bene? 10 watt sta dando. Sì, sì, sì, quello di Piaggio. Ah, allora, io sempre ce l'ho. Sai quanti anni è dentro l'armadio? Forse almeno 4-5 anni. Va bene, ottimo per la truppa. Sì, mi ricordo che Pinaggio diceva che bisognava quello per non prendere splatter. Infatti sono le biglie a golpe, dai. Quindi già mi confermi che la radio va bene, ce l'ho a metà, l'MB più 4, ok. È fortissima, non fa bene, va alla grande. Ok, perfetto. Da te o Carlo, poi girate per Luca. Guarda, il segnale è 9 con picchi positivi e la radio è bella chiara e potente. Va benissimo, Claudio, già si sente bene. Ok, sono contento. Va bene così, almeno glielo presto. Io vado molto alla time, potrò entrare in radio. Vabbè, poi quando lo sentirete capite chi è, io non dico niente. Ok, dai, va bene, allora adesso lo metto un attimo, lo lascio scaldare, dai, uso questo per un po', ok? Andami! Bene, bene, bene. Sì, già, ti stavo dicendo, ci sono sartorie qua nella mia zona per farti un telo di tenda 12 euro, quindi due teli sono 24 euro. L'ho portata là, ma hanno fatto un lavoro perfetto, 5 euro a telo, capito? Con 10 euro mi hanno fatto tutto l'orlo di due tende. E quella zona ne approfittano perché c'è tutta gente ciadina e quindi le approfittano e fanno pagare di più, ma se si trova le zone popolari dove si paga meno la roba. Esatto, esatto. No, io già vado sempre là via Grazia Deledda. anche lì ho visto che c'è una rivendita di pane, capito? Scendendo dalla zona alta di via Grazia Deledda, perché l'altra volta sono sceso a piedi, capito? Per farmi una passeggiata, ho fatto tutto il Ponte Nuovo, ogni tanto mi prende così, e poi da lì sono sceso, ho fatto l'altro ponte, il Ponte Rosello, poi ho fatto Viale Umberto, Viale Trento, mi sono fatto una bella passeggiata. Ho capito. E vabbè, ma come quello di Via Sucis se lo fanno lì, capito? C'è nel forno lì. In Via Sucis c'è nel forno. E praticamente il pane è buonissimo. Ma poi se l'hai provato, lo sai. Sì, già. I panifici così fanno un ottimo pane, anche saporito, capito? Come una volta, come lo trovavi una volta che c'erano i panifici, quelli artigianali, capito? E ancora qualcuno c'è che lavora così, capito? Alla rivendita dove c'è il panificio, e fanno solo quello che vendono, capito? Infatti. Ma sono migliori perché si attentano di più a farlo, capito? E invece quelli industriali li fanno a gogo e lo fanno come li viene. Sì, di forno così ce n'è anche uno in via Prunizzedda, nella parte alta però, capito? Dopo il semaforo sulla destra, ed è lo stesso panificio, fanno anche dolci, ho visto, tranci di pizza, di tutto fanno, e hanno il forno dietro. E lì abita con mia sorella, dove c'è il bar? Sì, prima del bar, capito, che c'è quello spiazzo, capito, lì vicino è. Capito. No, ma io devo andare, che Tesio mi sta chiamando, non so se l'avete sentito, devo andare, dai, ormai se l'abbia da do, in do, andare prima, e tutti i corsi devo scendere. Va bene Carlo, no, vi ha fatto piacere, ciao a te Claudio e tutti gli altri amici che sono in ascolto. Curriti per me. Ciao raga, dai, mi allontano un attimo anch'io che devo controllare la cucina, ci sentiamo dopo. Carlo, ci sentiamo dopo, che devo fare una telefonata. Eia, va bene, ciao Gianni, buona passeggiata col cane, ciao Claudio, va bene, io se entra qualcuno sto un'altra mezz'oretta circa qua al computer e poi anche io me ne vado a cenare, se no ci sentiamo domani, ciao e buonasera a tutti. Ciao, buona serata a tutti. Che è che fa casino? Va. Antonio, mi senti? Come la chiamata? Antonio, ci sei?